altro programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Mamma mia, anche questa settimana quante notizie, quanti fatti. Sono qui piena di appunti, di ritagli, di cose anche soprattutto nella capoccia, cioè me le tengo tutte, le contengo, diciamo. Non vorrei che diventasse esplosivo come qualcosa di cui vi parlerò tra poco. Ma come sempre il nostro appuntamento è quello del sabato, sempre dalle 14 alle 15, per raccontarci un po' quali sono stati i fatti principali della settimana. Anche comunque in realtà le notizie che vi hanno colpito in modo particolare, che può essere stata anche una notizia, diciamo, di secondo piano, però che a voi ha suscitato un interesse peculiare. 800 24 00 24, questo da subito ve lo dico, il numero verde per intervenire e per esprimere molto liberamente la vostra opinione sui fatti della settimana. Io come al solito ve ne segnalo qualcuno, giusto un po' per ricapitolare, ma poi voi potete andare su qualsiasi altra notizia che io non abbia indicato. Naturalmente posso farvi un elenco infinito sin dall'inizio, però posso dirvi sicuramente che continua molto animata, diciamo così, per usare un eufemismo, la campagna elettorale in vista dei ballottaggi, naturalmente, visto che continuano le amministrative. Poi la vicenda Strauss-Kahn, che ha avuto questa eco giustamente internazionale, ne parleremo. Obama, il presidente americano, che ha parlato della primavera araba, ma anche del Medio Oriente, creando un po' di diciamo contrarietà, soprattutto da parte degli israeliani, chiedendo che si ritorni ai confini del 1967, prima della guerra dei sei giorni. E poi l'allarme del Censis, i giovani in via d'estinzione in Italia, chi l'avrebbe mai detto? Comunque queste sono solo alcune delle notizie. 800 24 00 24, vi voglio anche sempre ricordare che cos'è, ogni volta diversa naturalmente ogni settimana, cos'è che ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni. Bene, devo dire che anche le angurie non sono più quelle di una volta. Io poi sono un'estimatrice, un'intenditrice anche proprio dei colpi di fulmine. Quando guardo un'anguria io non ho bisogno di toccarla, di annusarla come fantasma. Guardo da lontano e sotto, in un cestone enorme anche di decine di angurie, voglio quella, anche magari seppellita sotto, a volte faccio delle capriole pazzesche per prenderle. Ebbene, invece arriva una pessima notizia da questo punto di vista, perché in Cina, sapete che la Cina deve produrre così come altri prodotti in serie perché deve superare gli altri paesi, in Cina i campi di angurie stanno diventando dei campi minati. Voi vedrete perché? Perché mettono le mine antipersona? No, perché le imbottiscono talmente tanto di agenti chimici che diventano esplosive. Cioè ci sono interi campi di angurie in Cina che stanno esplodendo, come se buttassero fuori lava, lapilli, i nocciolini al posto dei lapilli, e poi tutta questa spugna rossa che diventa una cosa deformata, insomma. Fermiamo questa strage di angurie in Cina. Però ritorniamo adesso sui fatti di questa settimana, a parte quella dell'anguria che anche lo è. Provate voi a pensare, a riflettere che cos'è che vi ha interessato in modo particolare. Tra alcuni istanti presenterò con grande piacere, lo faccio sempre con tutti gli ospiti, ma in particolare anche oggi sabato con l'opinionista estemporaneo di oggi, anzi la mia opinionista estemporanea di oggi. Prima vi voglio ricordare naturalmente che non ci sono più le mezze stagioni, ha una pagina dedicata su Facebook e se volete cercare dovete cercare Roberta Giordano, non ci sono più le mezze stagioni. Quali sono state le notizie secondo molti facebookiani in questi giorni? Secondo Alberto il risultato elettorale che ci dà l'idea di un possibile cambiamento, dice, dopo 20 anni, e poi l'intervento di Obama che parla di riportare appunto i confini di Israele a prima del 67, forse il mondo sta veramente cambiando, dice Alberto. Per Max invece dice: se sei un uomo di potere e magari cominci ad avere qualche annetto, ti comporti come un deficiente e perdi tutto. Mi pare che il riferimento sia abbastanza lampante a Strauss-Kahn. Adriano: secondo me non ci sono più notizie, tutto passa e va, mancando un progetto sociale, di che cosa vuoi che si parli? Questo si collega anche per esempio alla precarietà dei giovani che tra l'altro sono in via d'estinzione. Stefano Landi dice: le notizie di questa settimana sono molte, si va da uomini di potere che stuprano a preti pedofili, quella che però secondo me è veramente significativa è la sconfitta della Moratti a Milano. Ecco, a proposito di questa cosa io direi, guardate che ci sono i ballottaggi il prossimo fine settimana, quindi tutto può ancora cambiare in un senso o nell'altro, sia da un lato che dall'altro. Dire uno è sconfitto, l'altro è vittorioso, mi pare che sia quantomeno incauto, perché le battaglie fino alla fine non si vincono e non si perdono fino all'ultimo istante. Poi Daniele dice: la questione relativa a Don Seppia, il prete pedofilo, e la presunta negligenza o omertà, dice, del cardinale Bagnasco. Per Monica è l'arresto di Dominique Strauss-Kahn, la pedofilia di Don Seppia, dice, la rivolta dei giovani e precari in Spagna, cosiddetti indignados, Mi piace molto questo termine, e dice il ballottaggio a Milano. Per Corrado il calo elettorale, dice, della Lega, sono convinto che sia grazie al 150esimo anniversario, bandiere in omamele, cioè dice tutte le polemiche che ci sono state. E poi Maria Chiara chiede di fare un in bocca al lupo a Christine Lagarde, che è ministra delle finanze francese e che dovrebbe essere, diciamo, la più papabile per la successione a Strauss-Kahn alla direzione generale del Fondo Monetario Internazionale. Ma signore e signori, non perdiamo altro tempo, perché vi devo presentare la mia opinionista estemporanea di oggi. Vladimir Luxuria. Salve. Salve Vladimir. Sono molto contenta di averti in collegamento, perché sono molto curiosa di sapere che cosa ti ha colpito questa settimana e quali sono anche i tuoi punti di vista personali sulle le tante notizie. Vladimir mi sembra che non abbia assolutamente bisogno di presentazioni, non solo perché è personaggio notissimo, perché è la transgender più famosa d'Italia, è artista e ex parlamentare. Vladimir. Eh sì. Una vita intensa. Una vita veramente intensa, scrittrice. Sono anche ex 18enne. Ex, è vero, anche ex 21enne. Oltre ex parlamentare. Eccetera, eccetera. Senti, ma ci rientreresti in politica tu, Vladimir? O hai dato? Se ci fosse, non nell'immediato futuro, una coalizione con un programma, diciamo, sul quale non ci sono distinguo e non ci sono posizioni diverse da parte dei partiti che compongono una coalizione, sì. Mm. Quindi insomma, ti è rimasta questa passione, non è detta mai l'ultima parola, potremmo rivedere Vladimir in Parlamento. Vladimir tra l'altro è scrittrice, cos'è il tuo secondo o terzo libro questo, Eldorado? Terzo libro, nonché primo romanzo. Eldorado, pubblicato da Bompiani, che è un libro molto bello di cui parleremo tra pochi istanti, per dirvi anche un po' sinteticamente di cosa parla. Però dimmi prima, Vladimir, anche solo il titolo della tua notizia della settimana, l'argomento, poi dopo ce ne occupiamo. Beh, direi la sconfitta, la bocciatura della legge sull'omofobia, quella legge, una proposta di legge che avrebbe previsto l'aggravante per chi commette degli atti di violenza o incita a commettere atti di violenza nei confronti di gay, lesbiche e trans. È stata una volontà da parte della Commissione Giustizia, della maggioranza di questo governo, di insomma non volersi prendere carico dei tanti episodi di violenza che succedono sempre più frequentemente, e quindi in qualche modo proprio ancora una volta l'idea che i nostri diritti, la nostra dignità non sono tutelati in questo paese. Vladimir, che poi non mi sembrava per nulla una legge che in qualche modo complicasse le cose, mi sembra che fosse presa pari pari da altre leggi che vigono in Unione Europea, la principale relatrice mi pare sia Paola Concia del PD, ma la stessa Carfagna, ministra del governo Berlusconi, ministra delle pari opportunità, e anche Alessandra Mussolini l'hanno difesa strenuamente, mi sembra, no? Comunque. Sì, perché purtroppo ci sono alcuni che pensano che fare certe leggi sia, non so, fare una legge della sinistra, quando invece si tratta di fare delle leggi, secondo me, di civiltà, che non sono né di destra né di sinistra, ma che dovrebbero segnare appunto un avanzamento del nostro paese, e soprattutto l'idea che chi commette atti di violenza volendo colpire una persona sconosciuta semplicemente perché gay vuole colpire l'intera comunità. E quindi secondo me era una battaglia di civiltà e un'occasione persa per il nostro paese. Anche Mara Carfagna ha detto che è stata un'occasione persa, appunto, di conquista di civiltà. È stata bocciata proprio 2 giorni fa, mi sembra. Tra l'altro leggevo che l'Italia è stata eletta dall'Assemblea Generale dell'ONU al Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, quindi ha una responsabilità in più nella difesa dei diritti umani, visto che fa parte di questo Consiglio, no? Mi sembrava veramente una doppia occasione buona questa per far passare questa legge. Dopo ti citerò 2 sondaggi interessanti su questo argomento, Vladimir, però il tuo libro è tra l'altro di estrema attualità, visto che ne stiamo proprio parlando di questo argomento, perché è un bel romanzo che parla di un uomo omosessuale di una certa età che ricorda i tempi durissimi, bui, di tortura, di repressione del periodo nazista, no? degli omosessuali, che è una cosa che spesso viene dimenticata questa. Sì, il romanzo è la storia di Raffaele, un ultra settantenne, che dopo un episodio che gli capita, ripercorre con la mente il fatto di essere partito dalla sua Puglia, perché lui era di origine pugliese negli anni 30, perché cercava la sua Eldorado, la sua terra promessa, una città, possibilità, che era proprio la Berlino degli anni 30, che era famosa perché in quegli anni aveva il maggior numero di locali, di realtà aggregative per i gay. Esisteva un locale che si chiama Eldorado, che era un locale frequentatissimo, si facevano spettacoli a travestiti, ci cantava Marlene Dietrich, era molto famoso. Lui è testimone oculare che quando è lì fanno irruzione le SS, il primo marzo del 33, c'è un arresto di massa e poi un interrogatorio. In base all'esito di questo test, di questo interrogatorio, gli omosessuali definiti incalliti, quindi quelli senza via di recupero secondo loro, erano portati nei campi di concentramento, tante vittime, 15.000 morti nei campi di concentramento, a cui ho voluto almeno risarcire la memoria. Senti Vladimir, allora te li cito subito questi due sondaggi piuttosto interessanti, uno riguarda l'Italia e uno gli Stati Uniti. Questo sondaggio è stato presentato proprio da Mara Carfagna in questi giorni in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, che era il 17 maggio, no? Questa settimana, sì. Quindi. E secondo questo sondaggio prodotto dall'UNAR, ufficio nazionale che fa capo allo stesso ministero che si occupa di discriminazioni razziali, quasi un italiano su quattro preferirebbe non avere un omosessuale come vicino di casa. Secondo te che cosa fanno i vicini di casa omosessuali che uno non lo vuole? Mettono la centrifuga della lavatrice un po' troppo forte, forse, che danno un po'... Cos'è? Questo... Beh, è un dato preoccupante questo qui. Cioè, l'idea che un italiano su quattro non vuole un vicino di casa. Cioè, non è che stiamo chiedendo di entrare nelle case loro e di occupargli una stanza. Cioè, quest'idea di avere il fastidio di avere un vicino è terribile, oltre al fatto che sarebbe terribile anche se uno dicesse non voglio un vicino ebreo, non voglio un vicino di meglio colore. Rosa e Olindo magari come vicini di casa, possibilmente, ma... no? E poi però dice che la buona notizia, intanto è trasversale sia a destra che a sinistra questa cosa, è centro, dice però la buona notizia, l'omofobia va diminuendo con gli anni, con l'età, e arriverà a scomparire se è vero che le diffidenze nell'approcciarsi all'omosessualità si trovano soprattutto nella fascia d'età dei 50 anni in su, e che gli intervistati tra i 18 e i 35 anni invece il problema dell'accettazione praticamente non sussiste. Questo è molto bello, quindi avanti giovani, anche se sono in via di estinzione. E poi l'altro sondaggio invece riguarda gli Stati Uniti, dell'agenzia Gallup, che è una delle più famose agenzie prestigiose internazionali di ricerca, secondo la quale la maggioranza degli americani è a favore del matrimonio fra persone dello stesso sesso, il 53%, e dice che dall'anno scorso è aumentato del 9% questo consenso. Pare una buona notizia questa, no, sull'argomento. Sì, perché questo terrorismo culturale che si è tentato di fare all'inizio, per cui i matrimoni, non lo so, avrebbero tolto qualcosa agli altri, per fortuna si sta sbugiardando, perché in realtà tutte le nazioni dove sono state fatte queste leggi sono nazioni dove si destina ad esempio molti più fondi, una percentuale più alta del prodotto interno lordo, proprio per aiutare tutte le famiglie. Quindi, come sempre, le battaglie per allargare i diritti agli altri sono battaglie che aggiungono diritti, mai che tolgono i diritti a chi già ce l'ha. Certo, più diritti, e non perché meno diritti, non sono incompatibili. Mario Da Lucca, prima della viabilità, mi dici solo qual è il tuo argomento, poi ci sentiamo dopo. Sì, l'argomento è ciò che non abbiamo più letto, vale a dire Fukushima è scomparsa, nonostante non sia stato risolto assolutamente. Sì, la situazione è ancora molto, molto precaria, avevo letto. C'è Mario Da Lucca, al numero verde 800 24 0024, dicevamo. Mario, prima delle notizie che dice che non si leggono più, tu vorresti avere un vicino di casa gay, o anche una vicina, perché anche le donne sono... Cioè, non credo che sia questo il problema, vorrei un vicino di casa civile. Ecco, mi sembra una cosa essenziale, giusto? Mario, senti... Umano. Quindi dicevi, la tua notizia è il fatto che per esempio di Fukushima non si parli più tanto. Sì, no, anzi per niente, nonostante il problema non sia stato risolto affatto. Questo è un periodo, fra l'altro, in cui vengono raccolte le alghe per l'alimentazione, che in tutta l'Asia vengono... da alcune parte ricerche importante dell'alimentazione, certo, non solamente voi. E fra l'altro, se si conferma che c'è il cesio nelle alghe, e questo va a finire in tutto il ciclo alimentare degli esseri marini, cioè i pesci, eccetera, eccetera, eccetera, con una diffusione veramente spaventosa. Ma soprattutto non esiste nessuna indicazione della soluzione del problema, e cioè rimane all'oscuro, no?

oggi sto con me, mi basta, nessuno mi vede. E allora carezzo la mia solitudine, ed ognuno al suo corpo chissà cosa chiede, chiede, chiede, chiedere. E torniamo finalmente con i piedi per terra. Vladimir Luxuria, tu invece che cosa hai pensato a proposito del caso Strauss-Kahn? Ma aspettiamo sempre la conclusione delle indagini, perché certo. Però insomma, ad adesso l'idea che una persona potente per questo possa pensare di poter stuprare una proletaria, certo, colore, no, una cosa donna, quindi è fuggita una cosa dalla Guinea fa con una figlia orrore, di 15 anche perché un uomo così facoltoso non credo che gli manchino i mezzi finanziari per trovarsi una escort. No, pare, ho letto ieri, scusa Vladimir, che a parte che ne ha avute varie, che in una casa di appuntamenti, citava ieri una maîtresse, una delle escort prostitute con cui lui si intratteneva ogni tanto si lamentava per la violenza, l'aggressività di Strauss-Kahn. Insomma, adesso aspetteremo naturalmente la conclusione delle indagini, ma diciamo che non so se hai letto sulle Figaro, il Nouvel Observateur, il New York Times, il Time, insomma ci sono state tante testimonianze, tante analisi che non fanno ben pensare. Poi vedremo, ma diciamo che il carattere predatorio, che molti hanno definito, da più parti è stato testimoniato, no? Tu cosa pensi poi, al di là di questo e relativamente anche a questo, del fatto che spesso gli uomini di potere, questo non succede alle donne, hanno il delirio di onnipotenza, che spesso è della cultura maschilista, è veramente portato alle estreme conseguenze, cioè non sentono più il senso del limite, il potere diventa proprio un'esondazione senza possibilità di contenimento? È una cosa piuttosto diffusa questa, no? Beh, io credo che in un rapporto il rispetto dovrebbe essere alla base di tutto. E ci sono degli uomini che, pur essendo attratti sessualmente dalle donne, non le rispettano, non le amano e usano questa violenza per... Però il potere dà alla testa o no, spesso e volentieri? Sì, può dare alla testa, perché a un certo punto, quando tu hai tanto potere, pensi di poter ottenere tutto e comprare tutto. Il sesso, la moto, e che poi che tutti devono stare ai tuoi piedi. La cosa che anche mi ha fatto molto riflettere è stato il fatto che è stato ripudiato dal Bristol Plaza a Manhattan dopo essere stato rilasciato col suo braccialetto elettronico. Quindi questa è la dimostrazione che non solo ci sono certi ricchi che pensano di comprarsi tutte le donne, ma che poi gli stessi ricchi sono le più carogne, perché poi dopo, quando c'è la persona in difficoltà, sono pronti a chiuderti il portafaccia anche di un lussuoso condominio. 800 24 00 24, Luigi da Torino, eccoci qua Luigi. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io questa settimana sono andato completamente in pallone, olè, nel senso che sentire parlare estremisti e moderati non so più da che parte posso essere, effettivamente diciamo che c'è stata tutta una sovrapposizione poi di questi termini, di significati relativi eccetera, che ha creato un po' di confusione. Tu quindi vuoi fare un po' di terapia qui e non ci sono più le mezze stagioni e ritornare diciamo a una certa lucidità, o vuoi dire che cos'è secondo te l'estremismo e la moderazione? No, per carità, sarebbe troppo lunga per una cura del genere, credo. Insomma, possiamo tentarci. Detto questo, sicuramente io mi interrogo sulla possibilità che in politica si faccia chiarezza anche nel linguaggio che viene utilizzato, perché utilizzare, secondo me, in questi termini estremismo o moderazione, o chi è moderato, chi è estremista, mi sembra veramente che crei solo confusione anche nelle persone che poi devono andare a votare. Senti Luigi, ma tu quindi ti sei fatto, cioè avrai riflettuto e detto non mi piace come definiscono loro diciamo queste categorie, tu ti sei fatto un'idea di cosa sia l'estremismo per esempio, Luigi? E spegni la radio per favore, che mi sento riecheggiare. Io sono radio spento, comunque sì. Io faccio questo tipo di riflessione. La radio del vicino, magari gay, sì, prego. Faccio una riflessione con lei. Viene dato dell'estremista Pisapia perché ha frequentato probabilmente o certamente il figlio di una catena. Ma se, Se non ricordo male, la storia ci ha insegnato che un presidente della Repubblica italiano, Cossiga, sì, avvertito nelle funzioni di ministro dell'interno un compagno di partito, il padre di Alcatin, affinché avvertisse il figlio che lo stavano, esatto, indagando. Questo mi sembra che sia storia messa agli atti. Mm. Ora, nessuno mai si è permesso di dare dell'estremista a Cossiga, anche se ci ha dimostrato di essere una persona, diciamo, agitata, con un certo spirito d'animo, sicuramente. Ma questo non per difendere Pisapia, è che secondo me si crea poi della violenza, tra virgolette, ovviamente si spera sempre solo verbale, tra persone che vanno a sostenere una causa piuttosto che l'altra. Mi sembra veramente gratuita, perché nessuno si può arrogare la volontà, l'esigenza di essere moderato o estremista, fin tanto che non vengono fatte certe manifestazioni veramente violente o estremiste. Luigi, dimmi una cosa, ti piacerebbe avere Vladimir Luxuria come vicina di casa? Ma io non avrei personalmente non avrei nessun problema. Tu, Vladimir, essere vicina di Luigi, avresti qualche problema? Se le pareti non sono in carta gesso come a volte e succede, lui russa sonoramente, va benissimo. Luigi non russi, vabbè, quindi neghiamolo comunque. L'estremista è lei, non sono io. Ah, Vladimir, però è vero che fanno spesso anche nelle case vecchie, in realtà ci sono delle pareti molto sottili che a volte bisogna rinforzare per la privacy. E tra poco voglio chiedere a Vladimir, a proposito di politica, anche siccome continua questa becera polemica sulle donne di sinistra, quelle di destra, quelle sono brutte, racchi, eccetera, e lo dicono sempre gli uomini, e si guardassero, perché veramente è molto difficile trovare un uomo decente nella politica italiana. Io farei un calendario, li metterei tutti in mutande, li metterei tutti al pubblico ludibrio per vedere quanto sono belli loro. Ma sentirei, dicevo, Dario da Forlì all'800240024. Dario. Salve a tutti, buongiorno, e buongiorno all'onorevole Luxuria. Volevo chiedere... Scusami un attimo, Dario, scusami, Vladimir, ma si rimane onorevoli anche dopo che non si fa più parte del Parlamento? Sì, in realtà sì, è un titolo che resta. Molto bene, Dario, hai visto come è stato preciso in questa cosa? Dario. Va bene, no, ma questa è la deontologia del Parlamento italiano, no? Che trova il tuo consenso oppure no? No, va benissimo. Volevo chiedere, mi avete un po' anticipato negli interventi di prima. Chi si è permesso? Mi volevo riallacciare al fatto che i diritti umani e quindi civili di ognuno di noi, di ogni persona, ma anche di associazioni, aggregazioni, stati e tutto, purtroppo vengono sempre violati, secondo il mio parere, dal potere socio-economico, sempre. Io non so, vedo sempre il potere socio-economico che trasversalmente mette i piedoni sul piccolo omino, e quindi purtroppo viola sempre i diritti umani. È un'equazione, io direi diritti umani uguale violazione dal potere socio-economico. Faccio un caso, Dario, perché a volte, detto così, uno potrebbe immaginare i paesi più arretrati economicamente sono anche quelli dove è più difficile difendere i diritti umani. Uno sembrerebbe che invece nei paesi più sviluppati, industrializzati, eccetera, anche i diritti civili abbiano fatto... Anche in quei paesi i diritti socio-economici, cioè il potere esiste. Dici, certo, certo. Anche nei piccoli paesi esiste un potere socio-economico, anche in quei paesi poveri. Poi una cosa che mi piace, mi è piaciuta molto quella di statistica, è che i giovani, i ragazzi, effettivamente spero per le generazioni future si scrollino questa omofobia, xenofobia, razzismo. Quanti anni hai, Dario, se posso chiedertelo? Non 50, so se... 50. 50. E spero veramente, io vedo nei miei coetanei, ma anche più grandi, c'è veramente una situazione disgustosa quando si parlano delle scelte che una persona fa nella sua vita personale, che può essere di un compagno, una compagna, oppure di altre situazioni. È veramente disgustoso, anche perché secondo il mio parere questo influisce poi anche a livello, cioè il micro, cioè la scelta di ognuno di noi che facciamo per la famiglia, per la coppia o per il lavoro, poi dopo va a influire nel macro, cioè si riflette nella grande situazione sociale, nella politica sociale ai grandi numeri. È questo il problema, purtroppo. Dai. Il problema è che i comportamenti dei piccoli, cioè questi piccoli, che poi i numeri l'hanno detto, 2 su 4, meno 1 su 4, quindi è il 25%. Che non vorrebbe un vicino gay. Sono due, esatto. E è molto. Dario, secondo te di cosa hanno paura quelli, quell'uno su quattro dice non hanno paura. Secondo me, vabbè, non voglio scomodare la psicologia, perché io vengo da studi scientifici ma non di psicologia. Secondo me, diceva qualche psicologo, la paura di essere castrati, la paura di non avere più il potere proprio sessuale, non lo so. Beh, ma le donne non hanno per esempio paura di essere castrate, non credo ci fosse. È vero che gli uomini sono un po' più conservatori. Gli uomini sì, per le donne questo veramente non riesco a capirlo. Dario, probabilmente è sempre un potere, secondo me è sempre relazionato a un potere sociale e economico. Grazie, cioè, Dario. Vladimir, senti, secondo te le donne sono un po' più aperte sulla questione in genere, no? Le stesse ministre Carfagna e la Mussolini, quindi la ministra Carfagna e Sara Mussolini sono quelle che subito hanno detto, quando è stato bocciato in questi giorni la proposta di legge contro l'omofobia, che hanno detto no, questa è un'occasione persa. Ti sembra che ci sia più apertura? No, sono molto contenta che ci siano non solo delle donne che hanno aperto su queste questioni, ma anche donne, diciamo, che provengono dalla destra. Non mi interessa vedere il passato. La Mussolini fu famosa per una frase, insomma, ingiuriosa che disse. Ah, te, proprio a te, no? Disse meglio fascista che frocio. Mi esatto, ricordo, è una frase omofoba. Però se oggi forse lei, è cresciuta. Cioè. Lei non mi ha mai chiesto scusa di questa cosa. Ah. Qui. Però se lei. Se fosse in ascolto, dice, Alessandra Mussolini, puoi chiamare. No, però il fatto che lei oggi abbia fatto questa apertura, abbia detto non hanno voluto sostituirmi uno del PDL perché sapevano che avrei votato a favore in Commissione Giustizia e voterò a favore quando andrà in aula questa proposta di legge, sperando che ci vada, secondo me è un modo implicito per dire anche ho detto una stupidaggine. Certo, perché, cioè, magari non l'argomento, però poi indirettamente l'ha detto. E quello sì. Nei fatti. Dimmi solo una cosa, prima di sentire Mirko dalla provincia di La Spezia, Loretta da Roma, Giada da Bergamo, all'800 24 00 24. Questa storia, io ho sentito, sai, questa storia cominciata ben prima di La Russa, diciamo, con i commenti del Presidente del Consiglio, poi La Russa che settimana scorsa ha detto le donne di sinistra sono più rachie, le parlamentari, eccetera. Ho sentito in questi giorni vari commenti, ma anche lo stesso Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, che ha detto, quando gli è stato chiesto se qualche donna di sinistra in fondo è decente in Parlamento, per esempio, le è stata proposta la Melandri, ha detto ma sì, la Melandri è un bel visetto, però poi dal collo in giù, insomma, lascia un po' a desiderare. Le robe che si commentano da sole. Senti, voglio capire, cioè, tu che sei stata in Parlamento, no? Gli uomini, cioè, c'è qualche, a parte tutti citano Casini, ma proprio perché evidentemente ce n'è uno, ce n'è qualcun altro che diciamo può essere all'altezza delle belle donne che circolano in Parlamento e fuori? Credo che se l'avvenenza degli uomini fosse rapportata alla media della bruttezza dei parlamentari, questo sì che sarebbe un modo per guarire molti omosessuali. Nel senso che non hanno motivo di attrazione, diciamo, per i parlamentari. Senti, la proposta di un bel calendario con tutti in mutande, giusto per mettersi un po' così a nudo, non completamente a nudo, ma per dire guardate come siamo belli noi che possiamo criticare le donne di destra o di sinistra che siano, potrebbe essere una buona idea secondo te, Vladimir? Per un calendario horror, sì. Ecco, sono d'accordo, non facciamo spaventare nessuno. Vladimir, sentiamo invece Loretta da Roma. A te la parola, Loretta. Salve a tutti, Vladimir in particolare. Ho avuto amici di tutti i tipi e mi sono sempre trovata benissimo. Molto con, bene. Con gli altri, diciamo. Ci fa piacere, Loretta. Ora, la cosa di questa settimana che mi preoccupa di più, che però non è solo da questa settimana, è la situazione dei giovani in Italia. La trasmissione precedente è stata chiarissima, l'intervista a quel giovane che emigra da Londra, il giovane ricercatore, talento, fa vedere, sì, ti fa vedere proprio che i giovani in Italia sono umiliati non solo da quando cominciano a nascere sono umiliati, soltanto farli andare in quelle scuole fatiscenti e in cui si ha il coraggio ancora di tagliare fondi per scuole che cadono a pezzi, loro dovrebbero andare in strutture che fossero meglio della loro casa, perché devono avere il rispetto anche delle istituzioni in cui vanno e devono avere la gioia di andare dentro e trovare un ambiente più bello di casa loro, secondo me. E poi sti giovani che ci pagano le pensioni, ci pagheranno le pensioni, e loro non potranno permettersi neanche la badante. Nella mia strada è pieno di persone anziane con uno o due badanti, ma con i chiari di luna che si ritrovano ad affrontare loro non so se neanche non possono neanche badare a se stessi, figuriamoci a quell'età. Loretta, ti ringrazio. Sentiamo Mirko La faccenda, l'idea del calendario è fantastica. Ah, benissimo. E io aggiungerei anche un calendario femminile per far vedere che dove non arriva natura, arte procura. Quindi sarebbe trionfo dei siliconi e faremo una raccolta, fondi. Grazie Loretta. Sì, veramente. Mirko, dalla provincia di La Spezia. Buongiorno. Niente, io volevo intervenire e fare una constatazione che secondo me è interessante. Ce lo dici tu. Parallelo tra la pena che viene data in Italia e quella che viene data negli altri stati, soprattutto negli Stati Uniti, per un reato di stupro, e parallelamente anche per i reati finanziari. Senz'altro, perché grandissime differenze. Anche i reati finanziari, non so perché, ma sono due reati che forse preventivamente se li fa un potente almeno non subisce la condanna, nel senso che sono dei livelli, vedendo anche il caso Parma, l'altricidio, non succede niente, e nello stupro chissà come mai poi alla fine vai a vedere, se vai a indagare 3-4 anni uno va fuori. È vero, forse anche meno, spesso anche meno, sai, con gli indulti. 30 anni anche se Fondo Monetario Internazionale, non so. No, su questo hai perfettamente ragione. Lui rischia, Strauss-Kahn, 70 anni in Italia, quando si fanno 2 anni è già una cosa ma minimo pazzesca. Le prende 25 e è finito. Sì. Là. Cioè, poi magari non ci va neanche là. Se dovesse patteggiare, se dovesse... Esatto, sì. Però qua non ci vai là, se hai più di 70 anni proprio neanche... Qui c'è molta indulgenza, sì, come nei paesi latini in genere, in tal modo particolare. È vero, Mirko? Magari. Una cosa così. Va bene. Ti ringrazio, grazie. Mirko. Vale. Grazie. Giada da Bergamo. La notizia della settimana è quella che riguarda quel signore col nome difficile che ha avuto quel problema in America. Strauss-Kahn. Però non volatemi addosso se vi dico che gli alberghi americani non si sente una persona che grida? Giada, non si sente per strada una persona che grida con tutte le persone intorno? Che cosa vuoi che si senta in una chiusa stanza d'albergo, che poi è una specie di appartamento? Non so se hai visto questi alberghi di lusso, dove è difficile, se non sai molto da loro, sono da 3.000, almeno 3.000 euro a notte, figurati che appartamenti incredibili sono, e ognuno è completamente chiuso nella sua privacy. Vladimir Luxuria, abbiamo detto ultimo libro Eldorado, un romanzo molto bello, molto intenso, anche ironico. Questi giovani in via d'estinzione, l'allarme di questa settimana del Censis, secondo in 10 anni meno 2 milioni, secondo te chi se l'è mangiati? Ma se l'è mangiati il sistema, perché leggevo, che i reali inglesi, notizia di ieri, secondo una ricerca di uno studioso, erano cannibali. Può darsi che ci sia qualche cannibale anche in Italia. Il problema dei giovani, del futuro dei giovani, è che purtroppo oggi i ragazzi vedono il futuro più che come una risorsa, una specie di minaccia, una paura incredibile di cosa sarà di loro. La gente, più che della paura di arrivare alla laurea, il terrore di cosa sarà di loro il dopo laurea, perché quest'idea che non sai se lavorerai e quando lavorerai che tipo di lavoro avrai, se sarà un lavoro che ti consente di fare dei progetti, credo che sia questo il vero tratto che fa estinguere la gioventù, perché essere già così preoccupati, secondo me, ti invecchia prima del tempo. 800 24 00 24 per le vostre notizie della settimana. Però abbiamo anche un appuntamento adesso che non possiamo assolutamente mancare, che diciamo ci dà una spinta già nel ritmo che ci accompagna verso la fine, anche nel caso verso l'immediata censura che Fabio Cantadori non esiterà naturalmente a tirare giù come una mannaia, perché abbiamo Stefano Andreoli, il fondatore di Spinoza.it, insieme a Alessandro Bonino, il sito di Satira, uno dei più cliccati della rete. Caro Stefano, una istantanea di questa settimana. Buongiorno. Intanto vorrei stigmatizzare il comportamento dell'ascoltatrice Giada, che sprutta questa trasmissione per fare pubblicità al suo libro. Cioè, mi sembra veramente una cosa... Vabbè, è venuto così, io ti chiedevo il titolo. Ma sì. E ricordiamo, già che ci siamo anche Spinoza, Una risata vi disseppellirà in libreria. Certo, prossimo. Presentato la scorsa settimana al Salone Internazionale del Libro di Torino. Eravamo insieme, una roba pazzesca. Sì, parte. Sì, salutiamo Giada. Dopo la scorsa puntata nel segno dell'eccesso, della trasgressione con Alan Elkan, finalmente un po' di moderazione con Vladimir Luxuria, certo. C'era proprio quello che ci voleva. Dunque, settimana molto densa, ora io ho questa angoscia dentro di questo silenzio elettorale, questo equilibrio, lo sai che siamo per condicio pubblica. Se citi un partito devi citare l'altro, se citi Daitaran 3 devi citare anche i Meganoidi, se citi Bersani devi citare anche Vendola, cioè c'è tante cose. Non sono proprio in una posizione, vabbè, comunque. Comunque. Bisogna ancora capirlo, poi magari chiediamo a Vladimir. Cerchiamo di capire le questioni amministrative, io se dico un partito devo dire anche l'altro, fammi capire perché così mi regolo. Comunque cercheremo di usare il giro di parole, magari parla di altro, ecco, se proprio ma non posso parlare d'altro. Come dico, parlo di Strauss-Kahn, sì. Questa clamorosa cosa, ma Strauss-Kahn per il processo ha già una linea difensiva chiarissima: dare la colpa al fratello, sì, Genghis Khan, chiaramente il fratello di Strauss-Kahn, che insomma, chiaramente è una linea è un pericolo pubblico, anche, sì. È anche frequente peraltro da noi dare la colpa al fratello, ma lasciamo stare per i ballottaggi, vabbè. Ballottaggi in vista, appunto, non posso parlare di ballottaggi, parlo delle elezioni concluse. Fassino, sindaco di Torino, ha vinto la trasparenza. Questa è una scemenza, ma è l'unica cosa che potevo dire. Posso anche dire coraggio, sì. Posso anche dire che gli sconfitti, diciamo, i sostanziali sconfitti di queste elezioni, inutile girarci attorno, cercano di non pronunciare la parola sconfitta, diciamo, sì, che è proprio per loro è un tabù. Non si può parlare di sconfitta. In conferenza stampa hanno dichiarato: se escludiamo Milano è un sostanziale pareggio. Ecco, anche un flipper, se escludiamo una palla, è sostanzialmente mio nonno. Poi lì comunque bisogna ancora vederla a Milano. Possiamo anche dire questo, sì. Vorrei chiudere appunto con una notarella un po' di colore collaterale alle elezioni. La cognata del candidato milanese al momento in vantaggio, che non andiamo a citare, sì, ha avuto una disavventura, ha perso il controllo della sua macchina ed ha sfondato la vetrina. Però poi si sono affrettati a dichiarare che è un sostanziale parcheggio, quindi molto bene, assolutamente nessun problema. Ciao, alla prossima. Grazie Stefano Andreoli e via con la mannaia, caro. Possiamo censurarlo immediatamente, perché mentre sto aspettando tra pochi istanti da Vladimir Luxuria una sua conclusione a questa puntata, siamo molto di corsa. Valeria Della Valle, ti abbiamo beccata finalmente, linguista della Sapienza di Roma. Ti proporrei, Valeria, molto sinteticamente, visto che ne parlava anche Stefano Andreoli, urna come parola di questa settimana e anche molto della prossima. Valeria, sì. Pronto, Valeria? La latina, sì, che significava semplicemente vaso, e poi dall'Ottocento tutti ricordiamo i versi di Foscolo nel significato di tomba, sepolcro, e poi si è specializzata col significato di urna per le ceneri. Però già nel Cinquecento la parola ha cominciato a voler dire anche cassetta nella quale si introducono le schede per sorteggiare qualcosa o per votare. La usa così già l'Ariosto, e poi dall'Ottocento in poi definitivamente nel significato di urna elettorale. Allora, per concludere, questo doppio significato che cosa può portare con sé? Ma forse per qualche candidato un significato, un presagio che potrebbe anche essere infausto, perché l'urna potrebbe fare dal significato di urna elettorale al, diciamo, solo al significato foscoliano, di raccogliere le sue ceneri metaforicamente. È un senso figurato non del tutto positivo, chi lo sa. Incrociamo le dita, qualcuno si toccherà da qualche parte. Grazie a Valeria, sì, Della Valle. Grazie a te, ciao. Ciao Valeria. E mentre mancano, diciamo, 23 secondi, Vladimir Luxuria, mentre ricordiamo il tuo libro appena pubblicato, il romanzo Eldorado da Bompiani, come concluderesti rispetto alle notizie che abbiamo trattato, quello che ti è venuto in mente? Tutte le notizie che effettivamente hanno colpito durante questa settimana, sono stati molto simpatici tutti i commenti. Vorrei aggiungerne un'altra soltanto: questa statua orrenda che hanno fatto, è vero, quella del Wojtyła, Papa, che sì, davanti alla stazione Terni, secondo me si starà rivoltando nella tomba, ormai sarà una centrifuga. Senti, credo, ma è a forma di campana, io ho pensato forse per dargli risonanza, no? Può darsi che sembra anche un Vespasiano, a dire mamma mia, cioè, credo che sia una delle cose più brutte. Non credo che riuscirà a sollevare il gradimento del nostro sindaco, insomma, Alemanno a Roma. Posso dire il suo nome, Alemanno? Certamente, a Roma si può dire, non c'è ballottaggio. Grazie Vladimir Luxuria, andrò a vedere probabilmente settimana prossima questa campana a forma di papa, e poi vi dirò. Intanto, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.